headlights are on. Alle 21.02 degli 87.9 di Radio Onde Rosse inizia anche per oggi 22 novembre del 2017, inizia prove tecniche di trasmissione. Consueto appuntamento del mercoledì sera. Incentrato su sonorità industrial, ambient, noise e sulla sperimentazione in genere. 0649 1750 il contatto telefonico. Il sito internet è www.ondarossa.info, anche per usufruire del nostro streaming già frequentato in questo momento. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. E per quanto invece riguarda questo spazio, domani sulla pagina prove tecniche di trasmissione Disorder, oltre che sul sito della radio stessa, verrà pubblicato il podcast con la relativa playlist. Il palinsesto prevede intorno alle 22.30, 25 o'clock, che andrà avanti fino alla mezzanotte circa. Salutiamo Like Awake qui da Roma, Becuzzi dalla Sardegna, Cinkosuan, se non erro, dal Canada, Alessandra qui da Roma. Don't forget your keys. Your parking brake is on. E invece noi andiamo ad iniziare con un progetto proveniente dalla Scandinavia, si chiama Letum, uno dei tanti nomi provenienti dalla diaspora Cold Meat Industry. E abbiamo ritirato fuori l'ultimo lavoro del 2014 per Letum dal nome The Fifth State of the Grief. Un lavoro autoprodotto dallo stesso Mattias Eriksson, che dà il nome anche a questa autoproduzione come label. Ed è abbastanza intuibile, essendo dalle prime note, cosa ci aspetta: il classico dark ambient di scuola scandinava. Ci ascoltiamo Never Change e The Morning Ritual. E dunque questa sera abbiamo iniziato con questa proposta proveniente dalla Svezia, che porta il nome di Letum. Lo abbiamo preso come esempio, come testimonianza di quella stagione molto interessante che caratterizzò la Cold Meat Industry anche rispetto al lato più prettamente dark ambient. Letum è uno dei pochi, diciamo, superstiti, o almeno speriamo che lo sia ancora, già che questo ultimo lavoro ormai è di 3 anni fa, questo The Fifth Stage of the Grief. Indubbiamente, come si discuteva con Stefano di Serio Like Awake, niente di assolutamente originale, è vero, ma importante è fare le cose quantomeno con gusto. Poi è chiaro che in questo campo ci sono una moltitudine di progetti. E ricordiamo che fondamentalmente il tutto nacque dai Corrieri Cosmici da un lato, dal Last Mort e Brian Eno dall'altro, e poi venne tutto il resto. E rimaniamo su queste atmosfere, ma arriviamo qui in Italia. Spesso nominiamo Raffaele Pezzella nel caso delle numerosissime compilation dedicate a vari aspetti della musica qua e là nel mondo. Questa volta invece ce lo abbiamo proprio con il suo progetto principale, che è Sonologist. E l'ultimo lavoro per Raffaele Pezzella come Sonologist porta il nome di Apocalypse. E quindi viene affrontato ancora una volta il tema della decadenza del pianeta, dell'inquinamento, dell'autodistruzione, dell'autolesionismo. Ci ascoltiamo l'iniziale Hypnosis e poi Sulfurous per Sonologist. You should see my name. sulle note ancora di Sonologist salutiamo Carlo qui da Roma e Giovanni Lisi, fedelissimo ascoltatore dalla Puglia, da Bari esattamente. Ancora un passaggio da Apocalypse per Sonologist. Ultima fatica per Sonologist di Raffaele Pezzella, da molti anni ormai in pista, tra ritualismo e atmosfere rarefatte ed oscure, e agitatore, diciamo, culturale attraverso la Nesplay Sounds, attraverso la quale ha prodotto compilation e anche altri artisti. E appunto aggiungiamo alla Nesplay Sounds Group e label per parlare ancora una volta di Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music, una monumentale compilation che abbiamo letteralmente consumato negli ultimi tempi. È il turno questa sera di Mehdi Menboudi e Vahide Sistahani, musicisti provenienti da Teheran, che rappresentano forse uno degli episodi più sperimentali e visionari di questi due CD, che hanno anche avuto la benedizione della Cold Springs, etichetta che per chi ascolta questa trasmissione ha un significato ben preciso. Un saluto anche ad Alessandro La Grazia Obliqua e Gabriel Edvi from London. پرچم از جایی بلند می شود پرچم از جایی non è un caso che la traccia si chiami Teheran Moonlight. پرچم گیاه سرخاب از جایی بلند می شود و آن راه رفتنش گرفته باشد پرچم از جایی بلند می شود پردنش گرفته باشد گیاه سرخابی به تپندن بیفتد که راه بیفتد پرچم از جایی بلند می شود و آن راه رفتنش گرفته باشد آبی که راه گیاه سرخابی به سمت تپندن بیفتد هوای سرمه‌ای لایت ببرد و آن راه رفتنش گرفته باشد بیفتد ناخن گیاه سرخابی به تپندن بیفتد به سمت و انشاءالله هوای سرمه‌ای لایت ببرد و آن راه رفتنش گرفته باشد پوست که از قبل ترکیده ندید بگیر به سمت هوای سوزنیه برود لایت ببرد راه بگیر توی خواه بکشد و انشاء به تنهایی آبی برود راه بگیر سمت هوای پوست به تنهایی که از قبل ترکیش ببرد برود ندید بگیر راه بگیر گوشت بگشد کنار به تنهایی تنها کند توی تسرات برود راه هوای سوشامعیه تر شود بکشد لایت ببرد به تنهایی از قرش هوا بکشد تنها به تنها ندیش بگیرد گشا تو تر شود برود هی راه تو بگیرد هوا بکشد تو به تنهایی ها تو هی تو هوا تو ها خالی شدنش تو گرفته هی. هوا تو تو ها بکنه توی خواه تو بیدار شود خالی شدن هوا کشته ها گرفته باشد ها تو تو ادامه اون هی تو آمدنش هوا باشد تو بکنه توی خواه بده ها توی شدن ها هی گرفته باشد با کوچکی هوا که موهای تو چند هزار ماه تو هی اون تو بکننش هوا گرفته باشد بیدار شد تو با کشته ها هی تو هوا بدهم تو به بعدی ها ها تو یک کوچکی هی تو notte, ragazzi, poi da lunedì, tu chi sei? Che dan, do te, ram, cosa? Ma c'è, بگویند بوی ما نه آت رحم میدهد من سیاه و هرچه با بگویند نه در کشته ها پیاده ای و هرچه بگویند نه دو تهران بله کاشتند و هرچه در کشته ها بگویند پیاده ای از دشمنانی بگویند که تقویم بله و هرچه بگویند نه از دشمنانی که تقویم در کشته ها بگویند پیاده در کشته ها و هرچه نشسته بگویند دم بخورم نه از دشمنانی که تقویم از گونه های بله ریخت و پا در کشته ها بگویم پیاده دشمنانی نشسته آدم بخورد همه یه فعل بگویم از دشمنانی که تدبیر نمانده ریخت و پا در کشته ها گرسنگی نشسته فکر آدم بخورد زیر آدم روشت می کنند به تشت بعد از خودش همه ی فرها از گونه های در کشته ها ریخت و پاش نشسته ما آدم بخورند فکر می کنشید نمنده گیاهی گرسنگی دروش به تلخیه های زیاد اسپر سوان شروع زد ما فکر می کنی به شیرینی دیگر از با زیاد باراند دیگر از عرض نمانده گیاهی دیگر از با فکر می کنی باش بری دیگر از ما تلخیه زیاد اسپرسو دیگر از اسب آب دیگر از باد زیاد باران دیگر از ما دیگر از با لیلا باران دیگر از با دیگر از اسب باران دیگر از ما لیلا دیگر از باد باران از آب دیگر از ما لیلا باران دیگر از اسب آب دیگر از باد باران دیگر از ما دیگر از اسب لیلا آهو دیگر از ما لیلا دیده است به عاشقانه فکر می کنی دوستم داشته است با صدایی که توی گوش این به یه تهدید انواع زیادهایی که دل می زنن. Una lunghissima traccia da questo Visions of Darkness. Mehdi Behbudi e Vahide Sistahani, questi due artisti provenienti proprio da Teheran, alla quale dedicano questa Teheran Moonlight. Una compilation che qua e là conserva un legame con la terra natia, e questa forse è una delle tracce che possiede questo legame con questi rumori di strada, così amalgamati con un andamento effettivamente mantrico. Un inizio di trasmissione particolarmente meditativo e rarefatto. E peraltro mi fa piacere che questa traccia, nonostante la lunghezza, sia stata gradita da più di una persona, dal buon Becuzzi e da Alessandro Bellotta, che risalutiamo. E proprio da Becuzzi ce ne andiamo attraverso una delle sue innumerevoli produzioni, questa volta a nome Kinetics, insieme a Corrado Altieri. Una produzione made in Sardegna, vera e propria. Un Becuzzi leggermente meno minimale, come lo conosciamo, rispetto a Kinetics. Mi ha ricordato in parte, in alcuni momenti, anche certe sonorità prossime a Pansonic, chissà se lui è poi d'accordo. I Pansonic di Ilpo Vainio. Ilpo Vaisanen e Mika Vainio, indimenticato, Mika Vainio. Quindi da New Dystopian Order ci andiamo ad ascoltare Asymmetry and Tactics e Trained to Die. Stop. Ancora Kinetics con Gianluca Becuzzi e Corrado Altieri da questo New Dystopian Order, Onda Rossa 87.9. Prove tecniche di trasmissione, ore 21:49. لأهم العمليات التي تحققت في محافظة الأنبار، تقدم قوات من الأمن وملاحقتها للزمة الإرهابية اللي تتخذ من صحاري الأنبار مأوى إلها. تم هي الصور الحصرية الأولية. تم هي الصور الحصرية الأولية. un Gianluca Becuzzi in vero stato di grazia insieme a Corrado Altieri. Becuzzi uno dei musicisti più prolifici e originali degli ultimi anni, tra virgolette, ma diciamo anche da moltissimi anni ormai. Becuzzi ci sorprende ogni volta di più e lo salutiamo di nuovo. New Dystopian Order è un album che tratta anche della deriva terroristica di talune situazioni internazionali. Ed è anche bello il cimentarsi con percussioni e campionamenti che ci hanno ricordato il miglior Muslim Goes, indimenticato Muslim Goes. Intanto vorrei accennare a un'iniziativa che la radio intraprenderà in quel del Forte Prenestino il 9 dicembre. Suoneranno a sostegno di Radio Onda Rossa Franti MM, quindi una parte dei Franti, progetto storico degli anni 80 con Stefano Giaccone. Ombra, che vedrà invece membri dei Kina, anche loro un pezzo di storia della Blue Buzz, questa etichetta degli anni 80 di post-punk e punk. E Tiziano Lo Conte e i suoi Rose Lux. Quest'ultima l'avremo ospite mercoledì prossimo intorno alle 22 qui a Radio Onda Rossa, mentre mercoledì 6 dicembre cercheremo di contattare lo stesso Stefano Giaccone. Il 24 novembre del 2010 moriva Peter Christofferson, come lo stesso John Balance, morto invece sempre nel novembre, ma del 2004. E quindi siamo andati un po' a ripescare diciamo l'ultimo album ufficiale di Throbbing Gristle, che portava il nome di Mission of Dead Souls, album del 1981. Questa è Dead Dolls e poi Circle of Animals, da questo storico album di Throbbing Gristle.